Appare il consigliere demaniale Fridolino Weiss. Questo signore fu per lunghi anni amministratore al castello di Val. 5 maggio. Ora è qui l'uomo di SCH. Ho paura che diventi difficile e molto agitato e feroce. 6 maggio. L'uomo quasi tutta la notte. È molto ostile, ripugnante, arruffato. La preghiera è una cosa indifferente per lui. 7 maggio. Quando la sera rientrai in camera, l'uomo stava disteso sul pavimento. Una cosa penosa e difficile che uscii di nuovo. Ma non giovò a nulla, allora ripresi coraggio e rientrai. Gli diedi dell'acqua santa e mi inginocchiai vicino a lui, egli piagnucolava in modo sconvolgente. Credo di conoscerlo, ma non sono del tutto sicura. 8 maggio. Molto duro. L'uomo rimase qui quasi tutta la notte ed è sempre molto agitato. Come sono sciocca, pur sapendo che non mi succede niente, aver sempre questa paura e ripugnanza. 9 maggio. Entrò in camera prima di me, io ho incominciato a pregare, allora mi venne vicino. Sono quasi sicura che egli è il consigliere Franchi W. Ha un aspetto orrendo, come fosse rivestito di una massa attaccaticcia. Non reagisce affatto. Ho sentito la musica. 10 maggio. L'uomo è molto seccante, continua a uscirgli di bocca quel gemito. Venne 4 volte durante la notte. Ho rivisto gli 11. 11 maggio. Mentre la sera alla finestra aperta stavo guardando le stelle, l'uomo venne come il volo verso di me attraverso l'aria. Una sensazione veramente spaventosa. Sono talmente spaventata quale da tempo non lo ero più, non fui capace di restare in camera mia e mi sedetti sul corridoio. Non mi segui. Quando mi fui di nuovo un po' riavuta tornai dentro e lo trovai che mi aspettava. Ho fatto con lui la funzione di maggio, egli stava in piedi immediatamente dietro le mie spalle. Rimase per poco e poi disparve, per ritornare come inferocito. Fu una cosa molto dura. Egli è il consigliere demaniale. 12 maggio. Ho visto gli 11 ed ho incontrato sulle scale la cameriera di mia nonna. Il consigliere demaniale fu qui 2 volte, egli si curvò su di me. È ripugnante, il volto pieno di buchi, senza occhi ma la barba rosso fuoco. Finora nessuna apparizione aveva così impresse le impronte di un teschio. 13 maggio. Ho visto di nuovo la cameriera. W qui a lungo. Un po' più calmo. Sembra contento di ricevere l'acqua santa. Udita la musica. 14 maggio. Sempre la stessa cosa con W, molto selvaggio e ripugnante. Ho udito la meravigliosa musica. Poiché io sono una persona che non se ne intende di musica non riesco a descriverla, comunque mi riempie di gioia. 15 maggio. Ho visto un mucchio di cose. 3 volte W, 5 volte la cameriera, 2 volte gli 11, ma niente di grave. 16 maggio. W singhiozzante durante il giorno. Alla luce del giorno ha un aspetto ancora più pauroso. Io cerco di vedere se riesco a farlo parlare. Mentre pregavo stette un po' più tranquillo. 17 maggio. W sulla scala e anche nella stanza da fumo e insieme con elle. E il bambino faceva paura. Poi fu da me anche di notte. 18 maggio. Egli si gettò su di me e mi prese per il collo. Io glielo impedii ed egli cadde sul pavimento. Rimase così a lungo. Io avevo molta paura, perché le sue occhiaie sembravano come di fuoco. Poi di colpo saltò in piedi e tentò di nuovo di lanciarsi su di me. Io gli tenni davanti la reliquia di Santa Croce e non lo vidi più. Ho sentita la musica. Ho visto in chiesa il cavaliere. 19 maggio. Una cosa tremenda, ho avuto un terrore agghiacciante. W si slanciò contro di me. Fu come con Enrico, ma non perdetti conoscenza, benché forse sarebbe stato meglio per me. La cosa non è da descriversi, non vorrei mai più subire questo, cioè se proprio Dio lo vuole, allora sì. W rimase ancora un pezzo dopo, ho pregato molto, ma sembra non ascolti. 20 maggio. Molto bello, niente W, solo la musica e un buon sonno.